Palino, ci sei l'ascolto? La KF stai ricevendo, ah? Cosa? Stai ricevendo la KF, si sente, come è premuto? Ah, si sente, allora non lo facciamo sentire più, stavo ascoltando quel batto lì. Il tuo vicino? Allora, dice che per arrivare, perché abbasso. Eccolo qua, 20 watt. L'avevo sollevato, sto facendo le prove in banda laterale. E beh. Io, sono andato in bagno, poi sono andato via. Ho detto, lampati tutto graziale, ho fatto la battuta, ma non l'ho mai sentito o non ho voluto sentire. Poi bisogna vedere che cavi hanno, già rido se ha 30 metri di RG58, che voglia o no, fino ai 15 metri, forse anche 20 va bene l'H150, ma poi che piaccia o no, ci vuole l'H1000. Minimo la K1000, se no la perdita è notevole. Vabbè, però la voglia parlare con i sordi. Io già ho messo 10 metri di H1000, ma di H155, che è l'antenna che dicevo io. La voglia sgolarmi io, va bene, fate bubis. Io già la roba già ce l'ho. Vediamo se entra Natalino, se non è troppo giù. Natalino, ci sei? Aspetta. Ah, sono le 5:20, forse è presto per Natalino ancora. Lui entra verso le 6, dopo la penichella. Aspetta. Ehi, aspetta, io già aspetto. A Silvia si fa vivendi. C'è un naso chiuso anche, non riesco nemmeno a parlare. Non posso vivere di rinagina, no? Se no fa male poi. Aspetta, minori che sono al telefono un secondo. Ehi, fai. Quell'orecchione non entra qua, sempre in PMR. No. No, non c'è nessuno adesso in PMR. Vai, telefona che io sono con naso HH. Ehi, aspetta. Ai. E quindi Natalino. Ehi, mi ha mandato un messaggio adesso, ok. Cos'altro c'ha qua? Non c'è credito, non c'è mai credito che c'è un coso, mamma mia. Cosa stavo dicendo? Sì, ma mi ha mandato Natalino, ok, forse per quello che ho scritto stamattina. Ma gli ho detto WhatsApp che eravamo in radio, non so se c'è, però non ha risposto. Natalino? Ma praticamente è stato uscito fuori, ma vabbè. Il gatto è difficile che mangi così. Anche perché è un gatto domestico, quindi non è molto di fame. Capito? Lì sicuramente l'hanno fatto apposta. Invece tinta Natalino è tinta guaiata. Io la prima cosa che gli ho detto, saranno quei bastardi che si lamentano nel baracchino. Avranno fatto un boccone appetitoso per il gatto, ci avranno messo dentro chissà cosa, col grano rosso per i topi o peggio quello azzurro per le lumache. Solo che è tutto da vedere. Se ha detto così, vuol dire che avrà fatto, credo, un'autopsia al gatto avrà fatto fare. Magari è morto da morte naturale, però se ha detto così vuol dire che qualcosa sa, avrà portato al veterinario. Infatti ieri non è entrato nemmeno lui, c'era un deserto sul 10. Io ogni tanto chiamavo, ho detto, sai come ha chiamato? Vabbè, paraculi o roba del genere, ma non ha risposto nessuno. Aspetta, Marco, che mi hanno richiamato, un secondo solo poi ti rispondo. Fai pure. Aspetta che sono al telefono, Marco. Fai pure. Ehi, c'è Claudio al telefono, io sono qua già. Sono già su questo canale. Natalino, non ho mai spiegato altro, tipo sei certo che sia stato, senza dire troppo, un boccone? Ma tu l'hai fatta vedere al veterinario? Ha fatto l'autopsia per essere certi che sia veleno? O è morte naturale? Ma i sintomi che aveva non li sai, no? Ha perso sangue da tutti gli orifici, dagli occhi, dalle orecchie, oppure i sintomi quali erano? Te li puoi dire? Te li ricordi? Ma c'era un boccone Natali, col grano rosso, veleno per topi, avrebbe sanguinato da tutte le parti. E se avesse preso il veleno per lumache, lo stesso, avrebbe avuto vomiti o... Molto grande era, dimmi quanti anni aveva. Ma la vita media del gatto è 12-14 anni, Però chi lo sa, che è strano, come è scesa giù, boh. Comunque se boccone sono quei passati dal baracchino, quelli che ti stanno dando fastidio. Tu hai visto qualcuno buttare bocconi, lasciare bocconi? Poverina, era così carina quella gatta. Comunque se puoi fai la segnalazione alla guardia zoofila o ai baracelli o qualsiasi altra cosa animalista, fai la segnalazione al telefono, chissà che non è appena qualcuno. Non ti devi compromettere, solo se ti aggrediscono. Adesso aspettiamo Claudio che era al telefono. Non riesco a respirare, cazzo, con questo naso è sempre gonfia la mucosa. Devo stare sempre rinagina. Non si può usare troppo spesso, mica fa venire i polipi, se già non ce li ho. Eia. Che poi non è moccio, è come se la mucosa si gonfiasse, è sempre così la mia. E cosa posso fare? Come piglio quell'acqua di mare che vendono in parafarmacia? È tonificante, sai? Io l'ho usata già una volta, adesso ce n'è una di cui fanno la pubblicità. Acqua di mare filtrata e sterilizzata e dice che fa bene alle mucose. Posso provare quella, almeno è solo acqua salata. Ehi, più ho il setto nasale deviato, quindi respiro già male di mio, dovrei operarmi, ma col cacchio che mi opero. Quelli magari mentre dormo con l'anestesia mi fanno l'allaccio pure. Poi mi sveglio che mi fa male il culo, anziché le mucose. E in teoria dovrebbe far male, perché ho sentito che quando ti raddrizzano il setto nasale ti rompono il naso con uno scalpellino. L'ho visto in televisione, mettono una specie di scalpellino e danno un colpo con un martelletto e ti spacca le mucose, le ossa, e poi ti mettono le canne nel naso e poco fa di male. Cioè mettono come delle cannule in modo da far rimanere in modo da far saldare bene le ossa e il setto nasale dritto, come già hai capito, dai. Attenzione Graziano, ci sei l'ascolto? Manco qui, era in PMR, cazzo, mette l'antenna esterna ed è uno schifo, non sente nessuno e non lo sente nessuno. Mette il gommino e arriva bene. Si è comprato un X30 e non va. Non ha, secondo me ha stazionarie, non è fatta per queste parti. Eccomi Marco, scusa, ciao Natali. No, mi stava dicendo Marco del gatto. Ma qua c'è la bava alla bocca, qualcosa. Di noi erano tutto qualche calcio alla pancia, qualcuno. Il gatto è molto, molto difficile. io ho avuto una gara a fare del bene, perché se si è avvelenata ogni 5 minuti è possibile, il terreno ha bisogno di un po', poi fa, perché qua due ce li hanno avvelenati a noi, però faceva bava la bocca, capito? Si muoveva tutta, tipo attacchi epilettici o cose del genere, quelli sono sintomi di veleno, ma così. Ma dimmi che spiegarsi a due animali, per carità di Dio. Io non ho questo problema perché ho poco vetro, il mio giardino, e non abbiamo questi problemi, capito? Poi c'è il giardiniere, due volte a settimana già rastrella tutto e pulisce lui. Però nel mio, ad esempio, nella strada fa solo la pipì. Mai l'ho visto fare bisogni nel marciapiede, non ce l'ha neanche il marciapiede, sta sempre nell'erba. Lo so, vabbè, mi dispiace del resto della caccia picchia. E vabbè, riprendi Marturio. Eia, aspetta che passo qua. Comunque è vero, mi sei scesa un attimino, 5 minuti, e poi siete scesi. Il veleno non è una revolverata, ci vuole un po' per agire, una mezz'oretta, cioè. Poi non ho la schiuma, non ho niente. Oh, il cuore ha ceduto. Non lo so, ho davvero, hanno dato un calcio forte ed è venuto un trauma interno. Ecco, così carina, l'avevo fatta vedere a mamma quella gattina già da tempo, ma non se la ricordava, gliel'ho fatta vedere oggi. C'è carina, ma femminuccia, era un maschietto. Oh, Claudio, ma questo che parla con Pomponio, questo Mario, che di notte parla... Dalle risposte di Pomponio capivo che stiamo parlando di mignote, di travestiti, ma deve essere un vecchio laidomi. Chiamami con suo ubriacone, che vuoi che sia, Mario Chini. Lui, io non lo sentivo, ma dalle risposte capivo che parlava di troie, di travestiti. Cazzo, deve essere un vecchio laido, io l'ho visto di vista una volta, che voleva il collegamento, voleva il link per comprare gli apparecchi digitali, no? Così se li vendeva a tutti, io col cazzo te lo do, non ne ho dato quella volta, me lo chiedeva io zittivo. E anche tu ti eri lamentato che era, che proprio diceva cose schifose, sessuali. Sì, infatti ho spento il PMR, no? Se mia moglie stava la televisione, devo sentire sto tortone, ma è un gatto parlando di ricchezza, vada a farsi ricoverare. E vabbè, parla con Antonello, parla con Antonello, intanto venga qua a rompere scatole, perché il giornalista era da un baracchino e viene qua a parlare, vedo che c'è. Più che il caricio di Pomponi, non poteva essere. Sì, poi c'è tutto che beve, questo, tutto strano, No. Mario Cagane. Sì, no, tu cado che per carità sboccato. Non so che sta parlando con la radio che non è al telefono. Che lo possono ascoltare anche i bambini. Vabbè. Come lo fa queste cose? Lui è radio a tutti, per lui sono tutte persone serie e tranquille. Riprendi Natalia, riprendi. Fate la segnalazione comunque se potete, anche cioè, anonima, generica, all'isofile e ai baraccelli. Chissà che non lo becchino, glielo fanno mangiare il boccone. Ah, tua moglie non ti vuol dire chi si è vantato di volerle ammazzare? E sarà uno di chi? Mamma mia! Poi se è allergico ci faccia curare, no? Perché li deve ammazzare? Anche non si ammazza Edu. E fatelo dire, convincila, assillala, poi già te lo dice chi è. Così lo tenete d'occhio. Ricordati che ti devo dare un attennino, anche, quindi un giorno, appena mi viene il raptus, vengo da te, o in macchina, non lo so, ti do un attennino, facciamo quell'ordine del filtro, casomai se non l'hai già buttata, un po' di sabbia me la prendo. Quante ne hai? Una busta? Anche la vecchia, la lettiera, comunque, dai. Capito. Ti do quell'antennino con l'attacco femmina, no, perché la tua radio ha l'attacco maschio. Ok. Poi già lo sai che esistono mille adattatori, no? Lo puoi attaccare se ti metti in macchina l'altro, quello più bello, quel display grande. Ci metti l'adattatore e è fatto. E chi l'ha detto che non possiamo più usarne? Credeva Claudio, le hanno mandato un semplice foglio di accelerazione delle bande del MIGE, del Ministero della Difesa, e lui credeva fosse tutto dai 410 ai 446, tutto amatoriale. Non è così, non è così. Sempre sta tutto secondario, radioamatori, 446 sono assegnati a noi, che abbiamo anche il baracchino. Cielo poco fa in PMR, mi c'è anche Graziano, Pomponio. Pomponio già dal pomeriggio era in PMR. È una malattia del PMR. E sono entrato anch'io. Oh Claudio, ci sei? Ehi, aspetta, ora non ha cosa al telefono. Fai, sono qui. Ehi, no, per dire, ho chiesto a Graziano che cavoli è, aveva, quanti metri aveva, non sa quanti metri ne ha, non sa che cavo ha, non sa niente, non sa niente. Ma non c'ha gli amici suoi esperti, guarda, possono fare il lavoro gli amici suoi, sanno tutto. No, ma guarda che gli hanno consigliato altro tipo di antenne, lui ha voluto l'X30 perché costava poco, capito? E beh, costava poco, cosa ne ha avuto? Non lo sento da nessuna parte, tranne nelle immediate vicinanze, non sente niente, eccetera. L'X30, non lo so, poi bisogna vedere le connessioni come sono fatte, le saldature, magari se le fa lui. Magari è fatta questo, è fatta. No, e anche la mia ha l'attacco N, infatti sai cosa ho fatto io? Ho messo l'adattatore da N a femmina PL. No, non lo so fare l'N, non l'ho mai fatto. Poi Fusero mi ha dato un PLN che non aveva il foro per saldare il centrale. Come cazzo si salda questo? Infatti l'ho lasciato perdere. Ho messo l'adattatore da N a PL. Ecco, risolto il problema. Magari perderà 0,2 dB, che ne so, però è più comodo. Addirittura il Rose mentre aveva gli attacchi a N, cazzo, mai visto. Mio non c'ha l'attacchi N, Marco, eh? Il Rosmetro che c'ho io della Revex, VEU c'ha l'attacco, l'attacchi N. Allora, lo smetti sì di cosa va, l'attacco BL. Vabbè, il mio è un Oxin, cos'è? Un giocattolino, è IPL, però a me viene comodo così. No, perché ci sono anche dei Nissi che sono, credo, PL, boh, vabbè. Ho sentito un break in lontananza, fallo venire avanti, prova un po'. No, avanti il break. Oh, forse ho sbagliato io, ma era sembrato di aver sentito in lontananza proprio nel cuore mio un break. Mamma mia, questo naso. Uff. Sai cosa ci vuole, Natalì, per sturare il naso? L'asino della crucca. Ah? Prima una narice e poi l'altra. Ma mi vengono due narici da negrone poi. Noi facciamo fessi tutti italiani. Italiani fessi. Fessi a vero, Barò. E chi? L'arrivante di gioco, come l'ha fatto? Che non ci siamo. Salvo i presi. No, in generale, Claudio, i negri, magari dicono i neri, gli italiani fessi, tutti italiani fessi, noi fare fessi tutti italiani. E non ci hanno fatto anche la canzone, non ti ricordi che ci hanno fatto la canzone? Ma non me la ricordo, cosa dice la canzone, ce l'hai? No, non me la ricordo neanche io, ma già l'ho sentita. Qual è quella, andiamo a governare, no? Non pago affitto. Ah, e chi sei? Non pago affitto, non pago lui, chi sei? Finché gli italiani davvero non si puri, hanno cominciato a pigliare forconi, falci e anche fucili e li fanno fuggire. E allora, aspetta un attimo, ho visto una portantina bassa bassa, chi è che vuole entrare? Ma se tu non attacchi, già lo sai, non arrivi in oggi. Ciao Giuseppe. Ho visto questa portantina, mi sembrava, non mi sembrava la tua, però... Se non agganci, è troppo basso, sì. E come mai si è sganciato da solo? Cos'è? Automatico? Ah, PL. Stringili bene PL, Giuseppe, che sennò fai danno. Non c'è bisogno di staccarlo. Ho capito. Va bene. Ciao, buonasera, ben sentito. Avanti, Marco. Marco. È andato, già magna è andato. Fuga male, giù le gighe. Cosa, Natalì? Ho chiamato a Marco e non mi ha risposto. Un attimo. Ho salutato Bonfonio perché prima sono spariti tutti e sono saltato e mi sono andato. Claudio, ma la monitor non ce l'hai? Se sto ascoltando loro, come faccio a avere la monitor? Cioè non è ai apparecchi full duplex, cioè che ricevono contemporaneamente due bande o la stessa banda, no? In due frequenze, no? Sì, però l'avevo messa in V. Allora, questa cos'è? 33, aspetta che la sto cambiando, aspetta. Eia. Il 2009 è bello perché riceve in contemporanea VU oppure VV oppure UU, tipo 486 433, però quando parli poi ne silenzia una, giustamente. Ecco, sì, ok, da. Bene, Natalino, sulla monitor eravamo, perché è da un po' che non lo usavamo, e quindi... vabbè, io non ne ho qua. Basta un portatile e un antennino al volo, si mosca subito, è molto comodo, come faccio io. Io ti mando la foto, c'ho l'antenna interna della macchina a base magnetica della finestra, su quella lì. Mia, vedi, su quella lì. Sì, Santiago 8. Però va bene così, giusto per tenere molto. Mentre l'antenna grande è su quella, sulla radio grande, capito? Su 910 H. Eia, ricordata lì. Portatile è la cosa più versatile che c'è. Appare e scompare come niente. Che problema c'è? Con l'antennino di gomma, capito? A proposito di portatili, da un bel che non uso il Midland G9, non lo uso da un bel po', sicuramente ha le batterie scariche. Proprio 27? No, 446, un vero PMR è quello. Avrà le batterie scariche. Mi metto a caricare, può sempre servire. Sì, io quando esco mica mi porto il Baobao come fa Pomponio, no? Che il giorno la resteranno. Ce l'ha sempre mia la cintura, sempre, sempre. Quando andiamo da Lidl, cioè da Ruspin, sempre ce l'ha. E prima o poi glielo vedranno. No, io porto quelli omologati, almeno ufficialmente omologati. Omologati di denti, vai tu, ma con i denti vai omologati. No, già ce li ho anche omologati, ci mancherebbe, ci vuole anche l'omologato, dai. Così, en passant, posso chiamare quando sono fuori, così, dalla macchina. Cioè, da fuori dalla macchina. Caro Natalino, vota Berlusconi, si toglie le tasse di successione. Non ne vuole manco sentire. Che cosa manco che mi era portato? Ho detto a votare Berlusconi, così ci toglie le tasse di successione. A me fa comodo, perché quando avrà 100 anni mamma andrà in cielo e non pagherò tasse di successione. E allora Berlusconi non ci sarà più. Ma forse c'è la legge. Capito? Un po' ci sono, un po' le tolgono, un po' ci sono di nuovo. Speriamo che le tolga il tutto Berlusconi. Perché guarda che sono esorbitanti le tasse di successione. ma non solo l'immobile, tutto il resto. Capito? Poi sai, uno come me non è che si toglie migliaia di euro per pagare le tasse di successione, da allora me le levo. È un casino, So che Berlusconi già lo sa che è un po' un lestofante, no? Poi si fa le leggi al comodo suo, vabbè che ormai è più in là che qua, insomma, è stagionato, non credo che combini altri casini, dai. Una volta l'aveva messo una legge, dovevano pagare le tasse su le cose che dai a qualcuno. Ha preso frutti, cazzo, è andato sotto sezione. Hai capito? E ne ha visto pure lui, passando, nella legge di Berlusconi, hai capito? E mi pare che le avevano tolte anche una volta le tasse di successione, le hanno reintrodotte. Non mi ricordo cosa era. Sono sempre quelli della sinistra che ti reintroducono le tasse, lo sai, capito? I comunisti o pseudo, che ormai non sono nemmeno più comunisti. Ma è uno il pregellato, Marco. Io quello stavo per dire, dal primo all'ultimo vogliono tutti, tutto, 5 Stelle, grillini, destra, sinistra, centro, vogliono messi al muro e fucilati. Comunque vedo purtroppo un rinfiorire di estrema destra. Già c'è Casa Pound in varie città, poi c'è questo, stanno aprendo nuove sedi di Forza Nuova, quelli hanno il fascio disegnatomi, quella è brutta gente. E a quelli bisogna votare, almeno ci sarà così una bella passata di fascismo, ci vuole, perché dopo la libertà che abbiamo avuto ne abbiamo abusato, ci saremmo magnati tutti in Bavaria. Lo so, ma quella gente è anche brutta, gente da manganello, mi. Che poi si rivolta anche contro chi li ha votati. È gente malfidata quella di estrema destra. No, no, poi gli ultimi ci vuole, manganellate forte, a questi miei. E lui ti dice, ma io essere innocente. Avanti, due si mettono i piedi, uno in faccia e uno nelle gambe, poi non si può muovere, l'altro si mangiare la testa. Un democratico. Avevo subito, sempre venire che vedere al carico. Ehi, bisogna essere democratici. Democraticamente bisogna mangiare l'arte, capito? Certamente. Se non è democratica la cosa non va bene. Avete giocato tutti i gradi, mamma mia. Italia, oggi sono sceso al centro nel pomeriggio perché devo provare una cosa. Insomma, mi sono fatto una bella passeggiata, arrivo alla fermata del tram in piazza Castello, c'erano questi due tossici persi, proprio due tossici autentici di eroina, e c'era anche l'amica loro, passami la birra. Io mi sono allontanato, ci volevano 20 minuti arrivare il tram, mi sono allontanato e mi sono seduto sulla panchina, poi hanno pigliato un tram, mi pare, per latte dolce, ovviamente. E poi mi sono avvicinato alla fermata, mamma mia che brutti, perché ormai l'eroina non va più di moda, eppure c'è gente che ancora ne usa, i tossici autentici come 30 anni fa, 40 anni fa, esistono ancora. Di solito, sai, adesso va più la cocaina, quelle cose là, no, il fumo, ma l'eroina non, anzi credo fosse addirittura sparita a Sassere, ma mi sa che no. A vedere le 6:15. Beh, potrei quasi iniziare a scaldarmi i fagioli, oggi fagioli, me. Salate il nostro ricconi, meno male già c'ho la camera là, non la camera a gas, c'ho la maschera di gas, se no soffocano di sonno. Sì, un po' di fame ce l'ho, dai. Stamattina ho fatto colazione alle 9:15, o giù di lì. E quindi un po' la fame adesso mi stimola, dai. Mi scaldo questi fagioli. Ho pasta e fagioli, non ho guardato bene. E mangio, dai, ne approfitto. Voi potete modulare tra di voi, eccetera. Qualcuno entrerà, magari entrerà Giulio, non lo so. Qualcun altro, qualche disperato entrerà, dai. E io stamattina potevo telefonare, ero vicino a te tu. Cioè? Dove eri? Vicino dove? Io ero a Piazza Licini quando mi ha mandato il messaggio, lo sai. Siamo andati a mezzogiorno, siamo saliti su, eravamo su, ci ho pigliato il caffè con mamma, mamma ci ha pigliato un cappuccino freddo come piace a lei, ci ha fatto con latte freddo, io un caffè, poi siamo andati da MB a comprare due cose, due, e poi una passeggiata tra le bancarelle. Beh, diciamo che non ero molto lucido, no? Di mattina presto, però ho fatto colazione e poi un po' mi sono ricoricato da sveglio, ero sveglio però, un po' coccolavo la gattina, eccetera, che viene sempre in braccio a me, si mette, sai dove? Quando ho le coperte o anche senza, si mette sempre sulle palle, lì no, perché è il punto più caldo. Sì, ci ho pensato anch'io. E io Claudio? Sì, ci ho pensato, Natalia. Adesso quel cane non trovo più la gatta a cui era affezionato, mi ricordo che non mi faceva nemmeno avvicinare, la proteggeva, e adesso poveretto, a meno che non decidiate, certo non subito, perché la cosa è fresca, non decidiate di prendere una gattina nuova, in futuro, vedete voi. Lì, guarda, Claudio adesso sta dando da mangiare al cane e io mi scaldo la roba, dai, se no poi si fa troppo tardi. È finito anche il gas, lo sai, ma non solo, fine del mese, fine dei soldi e non abbiamo gas, devo usare il fornellino a gas da campeggio. veramente allucinante, non abbiamo neanche un euro. Oggi è il 29, quindi 30, 31, 1. L'1 mamma piglia la pensione e tiriamo una boccata di ossigeno. E comunque inizia male il mese, perché dobbiamo pagare 200 euro di telefono, 200, almeno 200 di condominio, che sono 400, mamma mia! Vabbè dai che preparo tutta la maratà, dai, piglio il fornelletto e mi scaldo la roba, ok? Poi già rientra Claudio, là, sta dando da mangiare al cane, ma già rientra, ok? A dopo, ciao! Ehi, io sono qua, dai! E beh, tra di voi non parlate, cioè ci devo essere io sempre in mezzo. No, no, mangiare, stavo andando a mangiare a Filippo, no, portarlo alle 7:30, è uscito anche dopo pranzo oggi, quindi non c'è problema, già sono qua io, là. Vai, vai a mangiare Marco. Qua, sì. Mimi, c'è anche Gianni, ciao Gianni. Ciao ragazzi. Come va? Natali, non c'è di torno. Ah, ciao Natalia, bene, come va? Ma comunque Natalia, può essere inventato in fatto una cosa del genere, non è che sia detto che siamo stati tirati, magari ci si è sentito male in colpo. Già, ma se fosse, come si dice, veleno, non è così, o ci sono dei veleni istantanei per gli animali? Ma non ha fatto barba, grazie, avete visto? Ne ho detto Natalino, hai visto se aveva barba, se capito, perché qua c'erano avvelenati due, però c'avevano la barba in bocca, si muovevano tipo attacchi epilettici, c'è un medico qua che abita, ha detto, erano avvelenati. Capito? Invece lui non c'era barba, non c'era niente, può essere anche un infarto. Cosa già? Sì, lo stesso, un gatto che aveva qui ha durato 19 anni. Ma quella Natalino era una gatta morta. E i gatti durano parecchio. Tantissimo, c'è Ciccio qua, lo stesso c'ha più di 10 anni. Ma è bellissimo. Vedo Ciccio sempre. Prendendo un lupo e l'altro. Il gatto che è arrivato qua è. L'hanno anche sterilizzato e stava seminando tutto il quartiere. Però non lo so, ieri bisogna verificare bene, perché il veleno te ne accorgi, capito? Se tu sei sceso giù, a meno che qualcuno l'ha raccolto una frase di bella banca, non lo so. Giuseppe che ha quasi 90 anni non li dimostra, vero Giuseppe? Perché secondo te li dimostri? Gianni non ti conosce, ma io già ti conosco. Se non me lo dicevi io pensavo che avessi un'ottantina, 80, 82, 83, ma no 89. Giuseppe, l'attività che fai, per come ti muovi, va bene, gli acciacchi tuoi ce li hai, ogni tanto strampi. Perché non ti mantieni mai alla ringhiera come ti dico io, sarebbe alle scale, capito? Però 89 anni ti riporti molto bene, io ti conosco e lo posso dire tranquillamente, ne vedo di persone che proprio non manco a paragone con te, capito? Vai Gianni. Ma sai sono la scrivente? Per scrivente, sì. Un paletti di la scrivente automatica. Io come sto? Per carità, una buona noia Tartari, mamma mia, anche a quattro volte sono uscito. Sono uscito, poi c'è rientrato, uscito, rientrato. Alla fine, a mezzodì, c'ho andato per fare i segni. E ho trovato quattro buste piene di verdura, frutta, formaggio, preso terra di cotta, io ci ho micidiato. Ci abbiamo già va. Io, faccio il mio manzano, A piacere Cenieri, Claudio. Ciao Gianni. Noi siamo arrivati là a mezzogiorno. E io lo stesso. Lo stesso, addirittura sono andato in moto. Perché lì è un casino con la macchina. Una bellissima giornata, c'era il mondo, già l'hai vista la gente che c'era. E qui sono andato in moto, messa lì da Rosi, al bar, sono fatto una passeggiata, poi ho visto che c'erano delle belle arance, fiorentine, ho preso un po' di verdura, ricotta, formaggio, ho messo tutto nel cassone. Grazie, me l'ho messo davanti e sono rientrato a casa. Ma una meno 20, una meno un quarto da casa. Non sono più uscito, boh. Ehi, ciao Gianni, riprendi, io sto scaldando la roba da mangiare, riprendi già. Ciao Marco, mi senti stati a te da. Oh, quindi Natali, sei sul sentiero di guerra. Cosa stai? Natali mio, ti sta chiaro dirante da Rovacone, ti ringaggiante in terra, mi. Vabbè, cosa c'entra lui? Magari non c'entra niente. Natalino è sanguinario. Volete bene. Purtroppo, quando uno sembra che sia il più forte, c'è quello più debole, capito? Che fa di danno, parte da bravi, non è periodo di stare uno contro l'altro. Volete bene. Siete proprio ferro e fuoco, che mamma mia che brutto così, abito qua una vita, dall'87 non ho mai avuto nessun problema né col vicinato né con il condominio, un rapporto tranquillo e sereno, nonostante il mio carattere di merda, però ho legato molto bene qua. Quando c'hai un vicinato così come il tuo, non so come avrei reagito se c'ero io lì, forse peggio di te, ma l'ho sopportato anche troppo io, adesso va bene, forse perché sono rilassato, tranquillo, ma nel periodo che lavoravo non sopportavo manco che mi salutassero a volte. È brutto così, è molto brutto, è una situazione che deve migliorare, se no prima o poi succede di avere qualche patata, riprendi già. Senti, avanti, ciao già, guarda che stiamo andando a lavorare. Natalia, guarda, pensa che sei un po' nervoso, ti ho mandato un messaggio, così ti metti di buon umore. Ciao a tutti, ciao Claudio, ciao Marco, se sei ancora all'ascolto, forse stai tragurando. Vai Natalia, guarda a me. Gianni, guarda anche tu, è quella situazione. Ciao Giulio, ti gli hai mandato la Chieng o quello del mare? No, ma a parte quello, guarda che l'ho mandato anche a te, guarda. Anche tu apri e fatti prendere, mi fatti giù. Vediamo, dai, aspetta che carichi, qua non vedo niente ancora. Ah, un'altra cosa, esci a vedere cos'è. È molto lì, sì. Tutti contro l'ennesimo. Tutti contro l'ennesimo. E te lo mando anche a te, fra. Ma cos'è? Ma cos'è a ridere? Chiudi la porta. però. Ma dammi quello. Ma quello di Balai, cos'è? Ma si vede la foto, tutto, come se lo conosco. Sì, anche quello, sì. Ma te ne mando un paio allora, dai. Però ti riuscivo apposta per guardarlo. No, non c'è bisogno che io la porta, il telefono è mio, non me l'ha mai controllato nessuno. Mandami soprattutto quello del Balai, voglio vedere se lo conosco, se si vede la foto, se si vede bene chi è. Adesso te lo mando. Giulio, non ho mica capito cos'è arrivato. Vedo un riquadro di foto, ma non capisco il senso. Ecco, ad uno, 3, 4, come quattro cose lì. E schiaccia su ognuno di quelli, è uno per volta, il vedi. Scoppiato, Marco. Aspetta, io ho copiato, ma non... Non sono video separati. È come una schermata. Tu mi hai mandato la schermata dal cellulare, ma non sono video. Quelli. Addirittura vedo la schermata tua, di questo David Puntini, e sopra c'è scritto posse mobile. Tu mi hai mandato la tua schermata, ma non sono video separati questi, capito? Guarda, sicuro che non sono separato. No, ce l'ho io così, tu, in ogni quadretto, sono quattro, no, sono quattro fotografie. Tu schiacciane una per volta e vedrai che la puoi vedere, la scena. Oh, qualcuno ci è riuscito? E beh, gli altri, Gianni, Ropirum, Natalino, Claudio. No, a me non siamo, non siamo, ci sono portato in casa, ma non siamo. Sì, ma poi lo vedo anche perché c'è scritto, cioè vedo proprio una foto della schermata, dove vedo la schermata del cellulare di Giulio, forse mobile, il segno Bluetooth, eccetera, non è venuto, dai. Giulio, qua c'è scritto Davide, sì. Allora, aspettate che ve lo mando, uno per volta, allora, dai, uno per volta ve lo mando. Perché io ho fatto da quel quadro lì, diciamo, di quattro composizioni, ho fatto la fotografia col mio cellulare, evidentemente ha scattato quella diapositiva e è arrivata quella. Ecco, me lo mando uno per volta, dai, aspetta che devo fare la fotografia ad uno e poi di volta in volta me lo mando, dai. Scappa. Troppo lontano, volevo capire chi era questo. Si è fatto il bagno nudo, ma no, non si vede. Ma mancati, che lo dici? Stavo dicendo Massimo. Ma se di porto ci volevo vedere chi era, ma l'hanno fatto troppo lontano. No, qualcuno che non è più naturale, secondo me non si fa il bagno con questo freddo, a parte che c'erano quelli con le quelli del nautico che fanno vela, eccetera, eccetera, che stavano entrando in acqua. Dopo si è notato, quando è uscito dall'acqua, manco asciugato, si è messo le mutande, senza asciugare. E Giorgio Vittoci, cabaretto da Vittor. Non volevo capire chi era, ma no. Non si vede un cacchio. Avrà fatto una scommessa con gli amici? No, c'erano i ragazzini che stavano applaudendo, ma non erano gli amici suoi. Erano ragazzini che non l'hanno applaudito quando lui ha alzato le braccia, non è lui ha alzato le braccia come per cantare pittura, ci dobbiamo trovare. Eia. Io questo video l'avevo visto addirittura sulla Nuova Sardegna, mi pare, online, appena l'hanno pubblicato, poi l'hanno pubblicato tutti su Facebook, eccetera, WhatsApp. E ti ricordi i commenti di quel signore che filmava? Oh, fuori di gara, qui c'è esaurito, diceva, ma è esaurito. Ha detto che è stato asciugato. Secondo me è stato asciugato. Devo ringraziare che non sono passati allo Scoglielungo i carabinieri in quel momento, se no se la portavano via nudo. Poi mi chiamo l'ambulanza, ho detto che era un'ambulanza. Guarda Marco, hai fatto questo qui? Ma ancora non ho sentito. No, Marco, perché Marco. No, sto aspettando. coppia perché non prende bene, bene la connessione qua. Vediamo un po'. Casomai mi avvicino verso la finestra. Ecco qui, vedi tutta che hai già chiamato, è aperto anche. Se l'hai già guardato. No, no. Però non è nemmeno arrivato il messaggio. Perché quando arriva, cioè quando l'ha inviato è una spunta, quando viene ricevuto è due spunte, poi quando diventano azzurre, lui è stato aperto. Io sto aspettando infatti ancora. Arriverà, saranno le immagini di prima. Ai ai ai. Sono con la tua pagina aperta, ma ci sono sempre quelle due immagini di prima, che sarebbe la schermata del tuo cellulare, ma non è arrivato ancora. La connessione adesso è attiva. Vabbè, aspettiamo. Ma sono dei piccoli video. Adesso è arrivato. Vediamo qua, niente. Vabbè, mentre mangio aspetto, dai. Fatete anche Millomi. Allora, sta arrivando il primo, sta scaricando. Allora, volume e contenuti multimediali. Ah, stavi regolando il volume. Sì, vedo una ragazza con la testa reclina, tutta lucida questa ragazza, esce a vedere. Allora, vedo che non è un video, anche questa è un'immagine. Un'immagine. Ti risulta? Arriva solo un'immagine, la fotografia arriva, è data? Guarda, io vedo uno schermo nero con la foto di questa ragazza e il tuo volume, volume e contenuti multimediali. Non, mi stai mandando la schermata, non so perché. E poi ho fatto giusto, come tu l'hai detto, evidentemente non manda, non arriva. Comunque la fotografia è arrivata, vuol dire? Sì, e vedo una ragazza bella lucida, che copre il seno quasi, con la testa reclinata di lato, indietro un po'. Si sta mettendo il dubbio addosso, capito? Poi dovresti vederla bene per il seno, e se dopo passa ad un'altra immagine, e quella piccola di vista. No, aspetta che... una curiosità, te lo faccio anche in diretta. Allora, galleria, dietro, vedi WhatsApp immagini e vedo la schermata con quella ragazza, è un'immagine, è quasi una cattura schermo, quella funzione che io chiamo cattura schermo. Ho capito, allarga l'immagine, prova a allargarla. Niente, c'è la ragazza a mezzo busto, parte l'immagine dall'ombelico fino a sopra. Dall'ombelico parte, non si vede tutta la figura intera. È una foto, Niente di più, non... Prova a inviarlo correttamente, non lo so. Claro, perché dovrebbe aprirsi così. Vediamo un po'. Adesso lo mando di nuovo tutti e quattro insieme, vediamo un po' se arriva l'ultimo. Guarda che te l'ho mandata completa, tutti e quattro insieme, vedi un po' se riesci a vederlo adesso. Non lo so, e prova uno per volta, poi adesso per volta cerca di aprire. No, non toccarli tutti insieme, uno per volta, uno per volta. Giulio, come prima, tu mi hai mandato la schermata del tuo smartphone con tanto di nome di Davide B, sopra c'è scritto posta mobile, mi stai mandando sempre la solita schermata dello smartphone, non lo so come funziona. Cosa vuoi ti dica? C'è il simbolo Bluetooth, c'è il simbolo della batteria a metà, la metà verde c'è. Non lo so cosa non funziona. No, non si apre, evidentemente non si apre, dai. Vediamo un po' se riesco a portare la carta. Perché è strano. Adesso vediamo, dai. Ma non credo però che riesci alla fine. K. Ha sbagliato, cosa c'entra con i fagioli? Non ti ho capito. Ah, stai mangiando. E io ho detto, stanno iniziando a fare effetto già. Ma come entrano, escono? Tipo filtro. Entra solido e c'è le riforme. Ricordati sempre quello che ti ha detto Gianni, al medaglione, capito? E via. A me ne sono messo un po' troppi, e sai cos'è? È pasta e fagioli. A me ne sono messa un po' troppa ansia, perché non finisce più. Hai sentito i canotti a me? Oh! Medaglione, canotti, mi sarà goppa, dici? La schiccia Bullish, concerto in la minore. Bella die. Natali, secondo me non vedi, non senti solo i toni, ma vedi anche i lampi venire dalla mia zona. E anche i terremoti. Abbiamo tregua ancora domani, nuvoloso. Mercoledì nuvoloso e sole. Giovedì acqua a catinelle. 3-4 barre ci sono. Domani martedì nuvoloso, però pioggia non è adatto, ma se nuvoloso ci sarà pioggia, infatti umidità 77%. Poi domani, vediamo, domani esce umidità 79%, dopodomani quindi mercoledì, giovedì, madre di Dios, pioggia va forte. 95%, vento 21 km orari, all'imbeccio, precipitazioni 90%, madre dei durchi. Poi queste fagiole non finiscono più. Va bene, adesso vi dico cosa aveva combinato mio zio 40-50 anni fa, no? Quando venivano i parenti da Taranto, da Teramo, no? Avuto questo cugino più piccolo del mio zio e non so perché gli ha fatto questo scherzo mio zio, dice troddi, ho detto, e quello, cosa sono i troddi? Mio zio, sono dei dolci sardi. E questo allora continua, fammi assaggiare, credo che fossero davvero dolci sardi. Mio zio, ma davvero lo vuoi assaggiare? Sì, fammi assaggiare. Gli piglia la testa, gliene spara uno in faccia. Questo ci è rimasto malissimo e si è offeso sia lui che il padre di questo ragazzino. Ma lui ve lo si è fatto in bocca. Ma tu immagina l'effetto a un ragazzino che fa di una cosa del genere. Lo vuoi un troppo? Beh, proprio in faccia. Ha pigliato la testa e gli ha tutta ferma. Cesso, vabbè, si era offeso anche il padre. Non ci stava gli scherzi. Vabbè, che ci vuoi fare? Vabbè, ho cambiato radio, così. Facciamo andare anche questa oggi. Ma ho ragione, già le 7 sono. Beh, la lingua avete perso, tra di voi non sapete parlare. Sì, sono tutto il telefono. Voce Natalì. Sono argomenti squillini, io non voglio... Poi, anzi, ma c'è Natalì non l'ha pigliata di nuovo, questo colorito. È un linguaggio arrosolito, lo dice qualcuno, capito? Perché c'è anche Giulietta. Giulio, non può intervenire, ci vuoi intervenire. Io ve la giudevo a intervenire. C'è anche Giuseppe D'Albiero, il cuore X. Ma lui è meglio rimanere il cuore X, che se no fatti voi. No, ma a me da chiedo del comando non mi trattano. Ma se chi c'è l'abortante si trova la televisione. Allora, no, lui come telecomando c'ha, cambia canale, tutto dal microfono. Ma è casa sua lì, c'è una nipote sopra. Mi ha dato di toccare un pavimento. Io! In più la propria della sua si spegne completamente. Ah, Lucia. Ma come la 92? Ma non ho capito, chi l'ha messa? Uno su qui. Ah, ecco perché. Ho capito tu, ma Natalino non ha la 92. Poi se è un civile magari ce l'ha la 98. Marco, ti chiamo adesso. Gianni, lo sento nel QRM, Eugenio è quello, ma lo sento nel QRM. Neanche io lo sento così, ma lo sento. Ma se sto vedendo che siete grazie grande, come ha fatto a dire che lo sentite? Boh. Avanti Eugenio, avanti, buonasera. Cos'è che vai, sempre a bordo, ma io ti sento me. Anche se sei dentro il porto, dentro la nave, io ti sento sempre, ricordatelo. Lo so. No, già mi dia, ti sento, vale Marco un po' meno, ma qua arrivi 7-8, non ce n'è problema. Ti sento sempre io, cambio avanti a chi tocca. Vabbè Eugenio, dove sei diretto? Al posto? Via? Vai tranquillo. Avanti Natali, tu fai girare. Oh! Vabbè Natali, buon pomeriggio, dai. Ciao! Avanti qua! Tutti senza parole oggi, ciccio! Mamma mia, quanti ne ho mangiati, che schifo! A parte che mamma ha sbagliato il sale. Erano insipidi, una volta ce ne mette troppo, una volta ne mette poco. Poi una volta era perfetta, adesso vabbè. Sì, ma già fa bene mangiare senza sale, dai. Giulio ci sei? Mi sono già, ma non, comunque non fate, fate in tela, non capisco per qual motivo, evidentemente c'è qualcosa. Io c'è Terranova, mi. Terranova. Oh Luca, è per Duedo. Attento Terranova, apri te, sì o no? C'è Terranova che manco mattina napoletano è più. Ah benissimo, l'hai visto. Adesso si vince anche il 9, mi si dice chi fu il battito. La carità è, uno tipo di partita. No, fate iniziare il 9, perché per loro non fate buttare il culo. Per cui loro stanno facendo. No, le correghe che ci sono solo quando gioca a Juve, senza tempo. Mentre invece quando gioca a Napoli che le fanno fare i due gol irregolari. Poi non parliamo di Milano, tanto quello non sta fanno politica. Invece l'hanno allora dall'Uguaglia, hai capito? È uno schifo, lo sto dicendo, va. È uno schifo, non abbaio più. È uno schifo, la carità di Dio. Una vergogna totale, non messo questo VAR, nessuno non ha baidato, no? L'arbitro decide di sì. E allora cosa bisogna fare quattro arbitri in campo? Cosa bisogna fare? Vai a vederlo. Avete deciso voi che ogni qualora ci fosse una irregolarità, non vista eccetera, c'è il VAR, vai a vederlo, cosa decidi tu? È un acqua che l'ha dato il rigore, non vera. Ah, il gol dell'Atalanta lo ha vinto 1-0 Napoli e era in fuorigioco, era 50 cm fuori della linea, quindi di qua stiamo parlando. Il Cagliari gli ha annullato il gol ed era gol regolarissimo, l'hanno fatto vedere 6 volte a Mediaset il premio, 6 volte, contestato anche nel giornale, in tutti i giornali sportivi, contestato il gol annullato, perché era gol regolare, capito? Quindi lasciamo perdere. E quello del Milan che ha fatto il gol col braccio, non lo so io, e si vede anche il movimento del braccio quando lo allarga per toccare il pallone, e quello lo conta, ma infatti il Zaghi, l'allenatore della Lazio, è proprio incavolatissimo, per cui non è possibile, dai. Non è possibile che nemmeno con le immagini, che puoi vedere fotogramma per fotogramma, non riescono ad arbitrare in maniera corretta, come tutti. Poi non parliamo del piccolo imbecille dell'allenatore del Chievo, protestando, poi la vai da pubblicità, del rapido, cioè c'era quello come si chiama, vabbè quello che è stato buttato fuori per ultimo, il secondo. Era per terra, erano. L'arbitro ha fatto entrare i sanitari sono appena entrati in campo, una volta che i sanitari entrano in campo, un giocatore si è alzato segreto da Valencia, eccetera, e poi si mettono che ti danno due giornate a guardare in politica. Una vergogna, ragazzi, la sicuro al minimo ne avrà dato 4 perché l'ha provocata l'arbitro. Ok, il regolamento lo conosciamo tutti. E gli ha detto chiaramente, si è visto arrabbiare, aspetta fuori un attimo, un attimino, quando battono il calcio d'angolo rientri automaticamente. È andato fuori, prima l'ha fatto rimanere da davanti, a voi se forse l'ha fatto rimanere da Reddo, siccome ti ho già ammonito, e allora ti butto fuori, capito? L'altro poteva passare e non passare, o Giulio. Capito, perché l'hai munito un minuto prima, non era ultimo uomo, era un'azione da centrocampo, forse stata in aria, lo butti fuori, lascia perdere, lascia correre, ma il secondo cacciatore ha fatto bene a buttarlo fuori, perché non si provoca un direttore di gara in quella maniera, capito? Ti ho detto un attimino, rimani fuori, quando battono il calcio d'angolo rientri, no, e devo riandare a partecipare al calcio d'angolo, no, devi rimanere fuori un attimo, perché il regolamento mi consente di dirti che tu devi rimanere fuori, e invece l'ha fatto rimanetti, all'uscita, adesso vai a casa, vabbè, però, pazienza, no, non mi piace per niente il campionato quest'anno. A chi tocca? Marco, riprendi tu e fai girare, dai. Io, vabbè, lì non c'ho, non saprei cosa dire, dai. Stavo finendo qua di mangiare, dai, già rimango all'ascolto. La Biocco mi sta venendo già, mamma mia, ho mangiato solo il piatto unico, mi sta già venendo la Biocco. Incredibile. Oh, oggi quando sono tornato da Piazza Lissegni ero veramente a terra, con le gomme a terra io fisicamente. Camminavo piano oggi, ero proprio, guarda, non te li dico, ma sono arrivato a casa, non vedevo l'ora di buttarmi, sdraiarmi sul letto, poi vabbè, mi sono bevuto un tipo Red Bull, a me, che contiene taurina, vitamine, quelle cose, caffeina, beh pure, però sono bevuto una lattina, e questo è più buono perché sa anche di gusto Coca-Cola, no? Tra la, un po' la fragola e la Coca-Cola, mi è tirato su, sono riuscito anche a aprire al centro, a farmi un giretto, capito, mi ha tirato su, se no magari non sarei nemmeno entrato al baracchino, mi sarei stato tutta la sera collassato a letto. Stamattina proprio ero, camminavo piano, non me la sentivo proprio, non me la sentivo. Anche io li prendo per voi, ma quella è la cosa qua mi piaceva, perché io prendo gli altri, normali. E con questa che c'è, quello che ero molto difficile, sicuramente che non si è preso, ma non è preso 10 da tutti. A me invece il Red Bull o simili è troppo fragoloso, invece quello alla cola di Eurospin ha un sapore per me più accettabile e riesco a bermelo più volentieri e mi ha tirato su in effetti, lo sai. Io sono uscito a farmi una passeggiata senza sentire la fatica, ero più attivo anche a casa, capito? Caspita, io per stare in piedi devo bermi questa roba, questa robaccia. È sempre gasata la nostra. Quello sì, ma io già sono abituato, tra acqua, eccetera, bibite. Ma io non bevo roba gasata, capito? Bevo l'acqua, la naturale, il gasato bevo solo la pizza. Ma la Red Bull, adesso non me lo ricordo, la Red Bull è gasata oppure no? Ma io ti dirò che la Red Bull non l'ho mai bevuta. Ma io personalmente la trovo troppo fragolosa, la Red Bull normale e simili, invece quello con la Coca-Cola in più, cola di Eurospin, proprio quella con la lattina alta e stretta, colore marrone, quella la bevo volentieri. No, ma dico il colmo che io mi debba pigliare calci da questa roba per stare in piedi. Lo sai quanto ti prende, ma il Baileys al cioccolato, quanto è buono. Ah, il Baileys al cioccolato, guarda, lo voglio provare perché me ne avete parlato molto molto bene. Io lo bevo per Natale e mi piace tutto. non mancherò, figurati, se me l'ho perso. Guarda, a me già il Belis piace molto di suo, è veramente eccezionale, in più al cioccolato deve essere la fine del mondo. Girati Marco. Non ho capito, girati Marco. Ho detto girati Marco. Io non bevo, però l'ho assaggiato a Natale che mi hanno dato un pirino e me ne sono preso un'altra perché mi piacesse. Eia, sì sì, a me piacciono queste cose dolci. Poi il Vov, lo Zapov, mamma li turchi, mi berrei una bottiglia in pochi giorni, guarda, se non dire in due giorni. È che contiene alcol, quindi non si può. Non trovi a Città Mercato. Ah Gianni, mi sono ricordato qual era quella cosa che vendevano in discoteca, che aveva una parte di crema bianca e una di ciliegia, si chiama lo Sheridan, è diviso in due settori non uguali, quando lo versi scende sia la crema bianca, c'è la gusto panna che la ciliegia, ma è di un dolce stomachevole, Sheridan mi pare si chiami. Sì, l'ho sentito nominare, non l'ho mai sentito, ma l'ho sentito nominare. Oh, no, noi bevevamo whisky e coca, oppure il Marco, guarda adesso che sei arrivato, uno in fondo che abbiamo mandato. Sì, ho sentito il rumore, qualcosa è arrivato, adesso vediamo. Sì, questo è un video, allora cominciamo a vederlo, lo devo scaricare prima, ok, un attimino, datemi tempo, riprendete. Vai, vai, Claudio, ripeto. Io ho sbagliato il microfono, me lo metto nell'altra radio più accesa, questo è 140, e mi sto preparando per portare il cane, ok, sono qua comunque. Che ore ci sono qua? Le 7 quasi 20. Devo andare in farmacia, ma non ciao Giuseppe, ci sentiamo, dai, alle prossime. Ciao Giuseppe. Ehi già, mi sto vertendo, vai. Quindi porto il cane, non trovo la mezza. E poi a notte mi guardo, c'è un bel film, mi guardo la televisione. Ok, va bene che va bene. E che film c'è? Un film di tipo di mafia, ma cos'è il genere? Sì, mi pare sia tra le 5 e poi ce n'è più uno bello a Rai 1. Capito? E vabbè. Differenza non ti dal 4.40, vabbè 4.30 sempre trovato la mano. Dal 4.40 a questa, sempre uguale la voce. Sì, è bella forte. Io. Mi è capitato un'occasione di un 14, l'ho preso. Qui ci sono tutte e tre di nuovo, 30, 40 e 14. Si sa mai che sono 4 e 40, mi lascia a piedi, non manco avremo la radio di scorta. Già 2 anni che sta televisionata in quest'anno. Quella radio oramai non ha fatto l'era sua, 14 e più, non mi fa quei difetti, capito? Ora non c'è anche 4.30, solo che lo sto usando per altro, quindi per la 27 c'ho 4.40 e 140. Va bene, va bene. E tu a che ora lo porti il cane? Tu quando ne ho più da scelta, tu mi lascia la bicicletta e ho dovuto portare la macchina a fare il pari stasera e sono uscito presto presto, non ho manco mangiato. Dio, era iniziato bene il video, Giulio. Quante ne hai visto di fotografie? Una sola. Ho visto il video che mi hai mandato. Sì, ma voglio dire, siccome è in un unico coso, no? Adesso io ti ho mandato quella ragazza, no? Ma poi ha continuato, c'è stato qualche altro di video. No, il video era uno solo, ma era iniziato bene, no? Poi è apparsa quell'altra, mamma mia! Quella grassa? Grassa è dire poco, mamma mia, mi ha fatto passare a voglia di mangiare. E poi sono le due, anche le due sono arrivate. No, no, no, solo il primo. No, no, no, canale fuoco, se c'è dovrebbe essere un'altra, mi sembra, ma quanti due altri? No, no, confermo, solo un video. È arrivato solo un video durato 41 secondi. E dopo lo manda a te, Gianni. Guarda, io tanto vado a chiedere la presa, perché ho preso. Ma di che video si tratta? Un attimino, datemi tempo. Cos'è? Un arte? Pornata. Cos'era già? Ho detto pornata. Non me lo indica che li ho mandati qua, però non lo so perché. Avete ricevuto niente? Io. Oh, la so, sto parlando. Ma la so, però non lo so, detto io. Oh, non me li ha. Ogni tanto tenta di mandarli, ma poi non li manda. Vabbè. Giulio, prova tu se riesci. No, no, non ci riesco. Non ci riesco. Comunque la prima parte del video era interessante. La tua parte sì, la seconda parte te la facciamo passare da Puglia. Mamma mia! E cosa? Mamma mia, il Tavolena! Che è arrivata! Però la prima era toga, Mamma mia! Ti è piaciuta, Claudio? Sì, insomma. No, la prima era toga, no? A voglia. Sì, ma la giunga. Beh, io vado a portare il cagnone, se ci siete sentiamo, ok? Marco, li ho presi tutti, dai, li ho presi, no, non c'è niente da fare. Oh Gianni, quello che ha fatto quello, io lo faccio al gatto, guarda, sta riposando. Guarda, tutti occupati a inviaremi. Beh, non ve lo mando questo. Lui aspetta. Ehi, ti ho detto, quello che ha fatto quello, io lo faccio al gatto quando sta riposando. No, ti metti a date, io. Ma per sbaglio? Non lo salivano più, diceva che non era più possibile venire. E poi non è che lo sletto da vedere tutto l'articolo del regolamento CMR e LPT, Marco, quello che ti avevo mandato tempo fa. Beh sì, l'ho letto, ma non è che mi ricordi molto. Peraltro è roba già che è risaputa più o meno. Ma quella è giornata che tu hai quella la domenica, sempre se ricordo bene, non lo c'era mai o altro che non diventa, perché poi non c'è mai, era capito. Regolamento già. Aspetta che Gianni mi ha mandato una cosa. Si può superare il lunedì. Caspita, anche martedì, mercoledì, giovedì, tutto. Marco, e tu qui interessi? Non lo fai mai? L'hai mai aperto da Pinterest? Mai. Non so nemmeno cosa sia. Guarda, tu apri Pinterest, scrivi sulla tastiera Pinterest elettronica, oppure fai da te, oppure qualsiasi cosa. Poi richiedere quello che comunque scrivi così e vedi quante radio ci sono e antenne e le palle quali. Però ti devi scrivere, ti dici. Ah, non è un'applicazione, è un sito, vero? Ho letto qualcosa su varie cose in vendita, compariva Pinterest e non ho mai aperto, però non ho mai guardato. Eia, però bisogna iscriversi, così è, dare i dati personali. L'email invece è un numero password, è proprio qui. Tu scrivi Pinterest elettronica e poi c'è a fare il codo la descrizione, capito? Eia. Ma com'è affidabile come sito per comprare? Beh, per comprare non so dire, ma per vedere è straordinario, perché c'è di tutto, qualsiasi cosa che tu vuoi cercare c'è, per cui non lo so proprio. Puoi trovare tutto quello che vuoi, qualsiasi natura, guarda. Beh, un po' come Amazon. Sì, ma questo è molto migliore. Quando decidi ad esempio Radio Civita, hai già di vedere pure una scritta di radio di tutte le generazioni, capito? Se lo guardi al computer è meglio perché lo vedi grande, capito? Naturalmente se vuoi ti puoi scrivere anche col tuo nome, non c'è nessun problema. quando a caricarlo, mamma mia. Quanto è lento, quanto è lento. Vabbè, va. Lo vedrò con calma sul computer più grande. Bene. Vabbè, Gianni e Claudio, siete vivi, sì? Siete sopravvissuti a quella balena, sì? Claudio è andato a portare il cane, credo. Gianni. Sì, ci sono, ma sto rispondendo a un'amica che mi ha detto. Ah, ok, certo. Capito Marco, tu scrivi finchere e poi vedi la risposta. Guarda che è molto, molto bello da vedere, anche perché poi ti mandano gli aggiornamenti di tanto in tanto, no? Ad esempio in questo momento ne ho 9 aggiornamenti. Poi, ogni aggiornamento può essere composto, se sono io, da anche da 10, 15, 20, 15, perché no? Ah, tutti vedi continuamente. Ehi. Infatti quando andavo a cercare degli oggetti in particolare, su Google no, c'era, che ne so, eBay, c'era quell'altro, come si chiama, Amazon, c'era anche Pinterest. Adesso volevo vedere invece, visto che non mi carica, volevo rivedere quel regolamento che mi avevi mandato. Vediamo, riguardarlo più che altro. Allora, sì. Anzi, tre collegamenti erano. Ok. Poi se c'è una cosa che ti piace, per dire, se vedi una foto di una radio o di un'antenna o di qualsiasi altra cosa che ti interessa, te la puoi salvare, te lo metti nella bacchetta, te lo metti. E quando vuoi tu lo puoi consultare. Eia. Allora, Infodumus, questo con le frequenze LPD me lo ricordo. Lo aprivo sempre per ricordarmi i canali, no? 10.000, sì. Gli altri due me li riguardo con calma, dai. Va bene. Va bene, dai. Come? RC Auto. RC Auto. E poi puoi sapere se uno ha l'assicurazione della macchina. La puoi vedendo, puoi sapere mettendo queste cose, capito? Al telefonino se lo fa vedere. E ti dice se la macchina è assicurata o meno. Ad esempio in caso di incidente, di sversamento, sai, ci sono quelli che non hanno l'assicurazione. Tu puoi subito contattare a distanza se quello è assicurato o meno. Allora, io avevo in memoria il sito tra i preferiti, solo che alla fine non l'ho mai usato, vabbè, giusto, ho provato con la mia targa, così, targa della macchina più che altro. Ah, c'era anche l'applicazione ovviamente. Allora, ecco Italian Radio. Vediamo cos'altro mette. Ah, vabbè, anche così mette, subtoni. Vabbè, niente di... L'ultimo collegamento voglio guardare. Vabbè, questa è roba che si sa già. Vediamo l'ultimo collegamento. No, poi anche il bollo auto, tutte queste cose, tutto quel cappello, basta capire il coso, infatti, però per fare il telefonino, guarda che diciamo che la batteria se la consumo con più, apri e più in fretta consuma la batteria, Sto leggendo, eccetera eccetera, bla bla bla, vediamo. Ah, ecco, sì, quello sottolineato in giallo me lo ricordo, sto leggendo. Ok, simili, ma sono già cose risapute, non c'è bisogno forse il 17. Qualunque modifica che aumenta la potenza, modificare la potenza, sì, ma è roba risaputa, là. Quest'altro si tenga ben presente che questa cosa è personale. Ah, della comunicazione che dai, sì. Altre persone, anche se fossero familiari, sì. È roba che meno male è sempre quella, mi. Lo so. Ma per dire, ma è interessante da sé, volendo uno può sapere, è interessante. No, ma questo di interesse veramente, guarda, adesso lo sto guardando, ma se di è veramente. Ah, ma questo l'ha scritto un tale Valentino Stucchi, che io conosco già su YouTube. È un ragazzo che fa video di sopravvivenza, vita all'aria aperta, come accendere un fuoco, come usare un coltello per tagliare la legna, capito? L'ho già visto, infatti è lui con quel cappello a tesa larga, i baffetti, sì. Parla anche di, vabbè, giustamente di radio, no? Fa informazioni un po' su tutte le cose, un po' survival o di utilità. E beh, interessante che abbia scritto anche questo, dai, vuol dire che è preparato. Beh, certo, io adesso in questo momento sto guardando le fettine, 8-9-7 guardando, poi so che c'è altro che si vede, con le mie ogni tanto sul forum Roger K capita qualcuno nuovo, no? Che cerca di arrampicarsi sugli specchi sempre per quanto riguarda il Baofeng, dice, ma se io me lo porto nello zaino smontato, con l'antenna staccata, con la batteria staccata, e mi possono fare qualcosa? Tanto lo sanno che appena poi lo colleghi, capito? Anche se la batteria è staccata e tutto. Sì, finché a casa è un conto, ma quando te lo porti in zaino in scampagnata, lo sanno che lo colleghi batteria, antenna e cominci a parlare, e alla fine quello è arrampicarsi sugli specchi davvero. E come c'è qualcuno che è convinto che se ha un ricevitore trasmettitore può ascoltare, può solo ascoltare, anche senza microfono, non è così. Deve essere un ricevitore. Ne hanno parlato, riparlato, hanno anche bisticciato. Ma io lo sapevo, io col Kenwood, anche senza mic, non potevo ascoltare i radioattori. Deve essere un ricevitore. C'era sempre qualcuno che ribatteva, anche bisticciano anche sui forum. Io lo so che il Baofeng è vietato, anche portarlo fuori, usarlo comunque, quando mi beccheranno mi assumo la mia responsabilità, non lo nego però. Per esempio Tonello, ciao Antonello se ci sei, Pomponio, se lo porta sempre appresso, sempre, dovunque vada, che vada ad Eurospin, che vada sul tram, che vada al bar, ce l'ha sempre alla cintura in vista, il giorno che qualcuno lo ferma, lo porta via in manette. Io invece, quando esco fuori, porto sempre solo apparecchi veri PMR, tipo l'MT5050, l'FX Dynamic, il Midland G9, non porto il Baofeng, capito? Romeo, ci sei? Risponde, lo so che ci sei. No, allora è uscito. Vabbè. Cioè, sì, anch'io l'ho portato in macchina da mettere l'antenna di macchina, però con discrezione sempre. Mettevo lo scanner per giustificare l'antenna in macchina. Ma lui ce lo porta in vista proprio, farlo meno discretamente, non in vista. Poi andava al bar, no, metteva il baffetto sul tavolo e metteva la frequenza dei CC, dei carabinieri. E ogni tanto si sentivano le selettive, le comunicazioni. Ma così è come spararsi alla tempia, così è come ammazzarsi da soli. Così diceva. Sono in tetra, quel sistema che interconnette tutti, i vigili urbani, tutto, polizia, finita la pacchia, finita la pacchia, sì, così però mettere con tanto di gente seduta ai tavoli, lì metterlo sul tavolo facendo sentire le selettive, così è proprio come ammazzarsi con le proprie mani, gli è andata anche bene, mi è andata bene. No, infatti è meglio portare sempre fuori un PMR, un vero PMR, poi che sia 3-4 watt, è importante che sia il PMR, che si veda che non ha la tastiera come il Baofeng, capito? Ui, ui. Adesso comincio a accusare un po' la stanchezza, perché stamattina, nel pomeriggio, almeno mi sono ripreso bevendo quella roba lì, però comincia a calare la serata, è in calo. Poi oggi non mi sono guardato nemmeno un telegiornale. Infatti quasi quasi alle 8:05 comincio ad andare e accendermi la televisione. Ma perché sono tutte brutte notizie? Quello che ammazza la moglie e i figli, si uccide. Quell'altro pure, quella buttata sotto il treno, la metrò, quell'altro buttato dal finestrino del treno in corsa, ma sentono cose bestiali di tutti i tipi, sembra che la gente stia impazzendo, quello che con la mannaia ammazza non so chi, quello che spara sui passanti. In questi ultimi giorni ne ho sentiti di tutti i colori. È molto politica, cioè, io non li sopporto né l'uno dell'altro, né Renzi, né quella, né quello, mamma mia, è una cosa. Boh, questo bla bla bla laterale proprio. Ma d'altronde ogni paese ha la classe politica che si merita, così dicono. Eia, aspetta che stavo aprendo qua, ogni tanto qualche pagina riesco a aprirla. Allora, sulla Nuova Sardegna c'è scritto: nuovo caso di meningite in Sardegna, colpita una donna di Sorso, poveretta, di Sorso, vediamo se dice altro. Ah no, bisogna aprire tutta la pagina, capito, mamma mia, poi quella, bisogna isolare tutti gli altri, fargli la terapia, o il vaccino come si chiama, perché è contagiosa. Lo so, i nigeriani o spacciano o sono magnaccia, capito? O hanno giro di prostituzione, vivono così quelli. I senegalesi invece lavoravano, vendevano, però se ne sono fuggiti certi. Da quella zona sono fuggiti perché i nigeriani sono cattivi, capito? È una donna di 83 anni, 83. Ha contratto la forma leggera di meningite, non è il meningococco, ma è quella la più grave. Vediamo cos'altro dice. Vabbè, profilassi per le persone frequentanti della donna, eccetera, eccetera. Eia, vabbè. Sì, notizia messa adesso è questa. Forse sul giornale non c'era, ma quello dico qua lo nego, Perché chi lo sa, magari l'hanno già messa e non me ne ero accorto. Una Qualcosa ho letto sulla nuova, c'era una foto di questa rete che poi è ricurva verso l'interno. Guarda, a me interessa fare la foto possibilmente di mattina quando c'è il sole, se no non viene bene. Vorrei fare la foto di tutti e due i lati del ponte, che è tutto campagnette, tutto verde, no, vorrei fare due foto, sia del lato destro che del lato sinistro, insomma tutte e due le direzioni, una foto panoramica così. Solo che se mettono la rete poi non si può più fare la foto, però mi devo affrettare. Ma non so cosa ne uscirà. Certo, questa rete magari, oddio, uno se non si butta da lì, da dove si butta? Ma ci sono mille modi per morire, mi Giulio. Se non lo fanno da lì, lo fanno in altri modi, o si buttano sotto un camion, sì, a voglia. Come dice mamma, chi fa quel gesto dice vuol dire che ha perso il contatto con la realtà. Bisognerebbe contare da quando è stato istituito, mamma mia. Certo, non so, magari diventa più brutto il ponte con questa rete, non lo so. Non so che dire. Se possibile limitare, ma non te l'ho detto, poi il metodo lo trovano. A costo di scavalcare la rete, purtroppo. E quella gente disperata, mi. Poi i problemi principali sono due. Disperati per soldi o gente finita in bancarotta, no, disperati o per soldi o per amore, sempre quelli sono i motivi scatenanti maggiori. Lo so, quella foto che ho visto io sulla nuova del ponte con la rete ricurva era come una ricostruzione, un fotomontaggio, no, fatto forse come la vogliono far loro, no? Ed è ricurva verso l'interno, no? Proprio per non arrampicarsi e buttarsi. E boh, non lo so, certo si abbruttirà il ponte, quella roba lì. Vabbè. Comunque sì, ho delusione amorosa, poi vabbè c'è anche qualcuno che un po' diventa non tanto lucido, come quella signora, mi pare l'ultima che si era buttato, la penultima, anche una bella signora, mi sui 40 e qualcosa, boh. Giulio, stavo trasmettendo senza antenna, c'è un falso contatto e stavo parlando senza antenna, fin dove mi hai sentito? E ho detto che certe volte la depressione può essere di endogena, cioè non dipende da fattori esterni ma viene proprio senza motivo e certe volte non se ne esce vivi, purtroppo. Ciao Giulio, buonanotte. E beh, già nel caldo. A me mi si stanca tutto. Le 8:01, vabbè, adesso se riesco a vedere qualcosa del telegiornale, tanto è tutto politica, la maggior parte, e questa è cronaca nera, alla fine di bello non c'è niente da vedere. Claudio, ci sei ancora? Ehi, ora, sì, dove sono qua? Aspetta, PMR non c'è nessuno. Ecco sulla monitor mi sono messo, vabbè che Claudio CC, batti un colpo sopra, sotto, dove vuoi. E forse è andato a portare il cane, dai, mi sa che chiudiamo tutti già. A te è un'altra biocca, a me mi sta venendo, perché già dopo il piatto unico ho la palpebra pesante. Dimmi KP2. Bene, benissimo, ti sento bene. Io non era di grazia, però mi l'avevo comprata io, poi ho visto che c'era il buco al microfono, mi piaceva, le ho riportate. E te l'hai presa tu. Sono entrato? Ciao Capri, buonasera, l'hai sentito? Io non l'hai chiamato col telefono, ho parlato, mi l'ho ritirato stamattina. È caduto per terra e si è bruciato il microprocessore audio e poi non mi dava più i numeri. Alla fine già avevi ragione. Non l'avevo comprato nuovo, uguale, capito, sempre Samsung. E basta, tanto me l'hanno detto che non ne valeva la pena riparare. E infatti, quando c'è un amico si non conviene, però c'è Manuel, l'ha preso, è andato in discoteca, è saltato. Ci sono i servizi sociali, se lo vogliono fare bene, stava guardando le mie scarpe, mi, quelle da ginnastica bianche, belle forate ai lati, dice, cioè, sono belle quelle scarpe, piacerebbe avere come le sue, io un numero 41, stavo per dire, cosa vuoi, te le compri io? Lo sai, stavo allargando, volevo un telone di quelli con gli anelli, quei teloni da 4x5 metri, poi gli piacevano le scarpe, poi voleva che le comprassi non so che cosa. Cioè gli dai, un'unghia e ci pigliano tutto il braccio, perciò non conviene mai dare confidenza. Infatti te l'avevo già detto che è così. E così, bucci bucci, barba via. Avanti Capri. Allora, ti ho detto tempo fa che tutte quelle radio che hai tu, io le ho avute negli anni 2000, diciamo, 17 anni fa, 2002, capito? 7000 avevo la linea completa, completa, tutto c'era, tutto, tutto, tutto, e l'ho regalata a Mario Manse quando mi aveva aiutato a traslocare da qua a Via Pascoli, da Via Pascoli a qua, perché non aveva voluto niente, capito? Le piaceva quella lì e gliel'ho regalata quella, mentre il 757 normale, il 757 GX e il 757 GX2 li ho avuti tutte e tre, perché sono tre serie, non due, stai attento, c'è il 757, il primo che hanno fatto, poi hanno fatto il 757 GX e il 757 GX2, ok? 2 e 4 e 40, fatica. Fibra non li trovi già, in alluminio li puoi trovare, alluminio leggero, con i tappini ben fatto e sembra una mantova turbo, ne metti 5, capito? E va alla grande, ma non li rimettere pieni, perché pieni più pesanti sono, poi col peso della cosa, degli uccelli te lo rompo. Peccato che non si trovano i ricambi di queste antenne in fibra, capito? In fibra, perché io lo stesso ce li ho in fibra, ma mi devo dare a Luca e non li ho fatti, perché sono, non si muore Luca in mano, sono tutti proprio, la resina oramai è tutta consumata, tutta, non serve, anche se vai a pulirla non fa, capito? E quindi ce li ho buttati da una parte, mi pare ce ne siano due o tre, e niente, però se riesci a comprare il tubicino, si fa misura, si rimettono nuovi, ti do una mano io, ci mettiamo un sabato, una domenica, la abbassiamo e li rimettiamo nuovi. Praticamente ci verificano, io li ho tutti per questo, di me non erano le mani. La monitor. Non tutti perché erano verificati, non è andato a farmi. Aspetta, riprendi Capri. Ma perché avevo tutta il 440 che era la radio che si chiusce più meglio, grazie a niente. Andava ma ti faccio uscire un barbero, per l'ogni uno non lo devo dubitare, uno ci più molto bene, sa che era quello che chiamato Claudio, perché due 600 mai di qua. 1000 se vuole superstar, 3009 BX Colt, ci mettiamo d'accordo per il prezzo. Tu diglielo per il camion se c'è l'articolato, se serve a qualcuno suo, c'è anche altra roba da vendere, sempre Colt, capito? Diglielo, se ne serve, adesso il telefono è a posto, già ti rispondo. Diglielo 3009 Colt, circa 40 watt di potenza, una bella bestiolina quello che c'ho io, eh. Io l'ho comprato da Massimiliano, quindi, però no, non mai faccio niente, abbiamo fatto una cosa così tra noi, capito, perché lui doveva comprare un'altra radio, però non mai faccio niente, lì dentro l'armadio, tanto io non ne uso. Quindi, se non vuole qualcuno, ci mettiamo d'accordo. A meno che non abbia qualche ricevitore buono da fare cambio. Non lo so, io la mattina diciamo che non ci sto quasi mai a casa. Poi non è che il radio mi accendo la mattina, ma che proprio non sono obbligato a stare a casa, come domani che ho due visite, una alle 11, una mezzogiorno e mezza, per la casa, e quindi sono qua, però non ne accendo di radio, capito? E non c'è più traffico, no? Ormai sono tutti col telefonino, tutti. È un bel casino, vabbè. Avanti, doppio numero, prendi. Riprendo, vi saluto, dai, che sono andato a passeggio a sei. Qui anche mi ha detto, vi saluto il programma tutti e due, e a domani, se Dio vuole. Ciao, buon continuo a questione. Ciao, già, sentiamo domani, alle prossime. Avanti, Capri. Sì, sì, aspetta che abbasso qua. Capigallo a casino nel terrario, mi piace un po' quello. 4.30 e 4.40 sono stabili. Ok, va bene, va bene. Beh, lasciate di stare il microfono, non si sa mai che ti salga in testa di ricomprarti un K, almeno ce l'hai. Sì, sì, ce l'avevo io, l'avevo venduto. Ho ragione, 2.20, però una M non mi piace, non mi piaceva. L'avevo venduto per prendere un altro HF. No, il 140 sto usando, infatti lo sto abbassando, lo voglio regolare a caldo. Aspetta. Eccolo qua, 20 watt a caldo, così è perfetto. Il 140 sto usando con M60. Poco fa stasera c'avevo il 4.40. Ehi, ma Gianni dov'è? Doppio room, è andato a portare il cane, infatti è già tardi, lo stavo ricordando. No, Bianconi ha chiuso, non ne fa più lavori. Non ne fa più lavori. Se l'ho chiamato io per una mia questione personale, no. Per una radio che ho comprato, per me non c'è niente, solo da controllare delle cose, però mi ha detto assolutamente no, non faccio più lavori, vabbè, d'altronde c'ha più di 70 anni, quindi no, ha fatto bene, e quindi niente, lì, in attesa che qualcuno mi dia una mano per poter capirci qualcosa, però è lì, vabbè, ok. Sì, ma non hai rispettato quelle cose che ti ho detto io. Le zanche, lo piazzavo il telaio e poi gli appoggiavi lo sportello. Ah, ecco, capito. E allora già va bene, beh. L'importante è che sia messa bene, già non c'è problema, che loro abbiano l'opportunità di... Intanto loro hanno la chiave, quando ti vengono a fare la lettura, mica ti chiamano a te, capito? Hanno la chiave, quella universale, aprono, ti fanno la lettura e richiudono, capito? Ecco perché tutte le nicchie vanno fatte fuori. Sì, sì, ce l'hanno universale loro, dove aprono tutte le nicchie, capito? C'è quella triangolare, oppure c'è quella entrare con le due alette. Dipende, quale hai messo tu, quell'attacco triangolare? Sì, ho quella triangolare, sono due o tre chiusure, ci sono, con la letta interna, quella normale. No, già ce l'hanno loro, vabbè, ce l'hanno. E se trovano il lucchetto chiuso, se tu metti un lucchetto lì al posto della chiave, cadono il lucchetto, ecco perché vogliono le serrature originali, in modo che loro possano aprire e fare tranquillamente la lettura. No, non va bene, l'acqua è un bene troppo prezioso, non bisogna sprecarla. non bisogna sprecarla, bisogna fare le cose fatte bene. Tu hai fatto un buon lavoro, l'ho visto, quindi adesso un po' di pazienza, poi sarà tutto regolare. Vabbè, se si accredito che l'utenza è la tua, diglielo, capito, in modo che sulla fattura mettano qualche metro cubo a credito. Sì, tanto soldi non te ne danno, te la mettono a credito, capito? Ti mettono i metri cubi che praticamente ti dovevano loro e vanno a scalare i metri cubi. E ti risulta, se hai consumato 1000 metri cubi, vanno a scalare e te ne risultano, per dire, 800, 700. Non lo so come la scalano, adesso le cose sono cambiate. Dopo il censimento che avevano fatto hanno un po' assestato la parte amministrativa, però il procedimento è sempre quello. E anch'io l'avevo lasciata attaccata, tanto dovevo tornare qua, quando poi sono tornato era distrutta, ci mancavano due radiali, era tutta la messa male, no? L'ho staccata, l'ho comprata nuova e fortunatamente avevo trovato la Mantova 1, l'ho portata un camionista alla Modena, capito? Avevo trovato la Mantova 1, cioè da Modena, scusa, la Mantova proprio. La Mantova. E ce l'ho, è nuova, i radiali sono perfetti, l'antenna è a posto, però se si rompono i radiali, che non si rompono quelli in fibra, ma si consumano, c'ho già pronti i radiali in alluminio della Mantova Turbo che li avevo recuperati, originali della Mantova Turbo, le metto quelli, c'è la Bidellucci, e se no ne comprerò un'altra di antenna, tanto staccare le levo qua le antenne fra un po', perciò mi domancio altri due appuntamenti di mattina, di pomeriggio, prendo un sacco di gente, è che due bovaracci interessati proprio a 1000 sono andati in banca a chiedere il mutuo e non c'hanno i requisiti, la busta paga è bassa, lavora solo uno, capito, che i soldi sono tanti e quindi non li hanno dato, infatti mi hanno chiamato dispiaciuti, se potevamo fare qualche cosa posso fare, posso andare a casa gratis, no? Io voglio i soldi, non è che io ho pagato la casa, non me l'ha regalata mio cognato e mia moglie, l'ho comprata, capito, con i soldi, quindi non posso regalare niente. Sì, ma infatti io ho due, me li ho tenuti di radiali in fibra, anche se sono un po', la vetrovesina è salta, poi infatti Roberto mi ha detto, le dai una pulitina leggera con la tela fine, e poi una passata di trasparente, capito, di trasparente, un aggrappante più che altro, e non si stacca più, e te li tieni di scorta. Ne ho due però soli, ne ho due perché gli altri due si erano rotti. C'ho anche un motto, un piantone, diciamo, di Mantova che mi ha dato Gianfranco, e quello tengo di scorta che c'ha gli agganci nuovi, non so mai se rompono gli agganci dentro, me lo tolgo e via. Va bene, già alle 9:20 siamo, dai, io ti lascio, non so se tu hai già mangiato, ma io no, quindi è già pronto, adesso spengo tutto qua, chiudo la finestra, ci andiamo a papai e quindi ci sentiamo domani, ok? Se hai novità, diglielo a questo amico tuo, se vuole baracchini colte ne abbiamo, sia io che Massimiliano. Abbiamo quello che le piace, si prende, ok? Dai, saluto tutti quelli che sono sul 10 in ascolto, a domani signori, vado a pappare, ciao.